la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Allora, io mi chiamo Festim e vengo dal Kosovo, ho 23 anni e sono in Italia ormai da 7 anni, sì. Sono venuto che avevo 16 anni. Dal Kosovo a 16 anni sei partito da solo? Sì, sono venuto con la mia squadra di calcio e a quel punto ho deciso di fermarmi in Italia. Questa è la storia di Festin, un ragazzo del Kosovo arrivato in Italia quando ancora era un ragazzino, da solo. Una storia che ha una prima volta che coincide con la storia di tanti altri minori non accompagnati. Abbiamo cominciato a chiamarli così, quasi con distacco. Si tratta di ragazzini, a volte bambini, che arrivano in Italia da soli e, come vedremo in questa intervista, molto in queste vite è affidato al caso, all'incontro fortuito che può portarti anche nel peggiore abisso. Spesso l'arrivo in Italia è l'ultimo tassello di un infinito viaggiare, camminando, affrontando insidie e violenze che alcuni si vergognano anche a raccontare. Molte di queste storie le abbiamo viste scorrere sui nostri televisori o al cinema, come il documentario di Valerio Cataldi quando Youssef si mise in cammino. Questa mattina alle 9 abbiamo attraversato correndo il confine con la Macedonia. Ma la polizia macedone a Skopje ci ha fermato e ci ha riportato indietro in Grecia. Ora andiamo di nuovo verso la Macedonia. La mia ragazza mi aspetta a Copenaghen. Lei ci è arrivata in aereo con un visto umanitario. A me non l'hanno concesso e quindi vado a piedi. Dovete camminare, è una lunga strada. 4 mesi. Dall'Afghanistan ci abbiamo messo 4 mesi ad arrivare qui. Camminando. 4 mesi, viaggiando a piedi. Sempre camminando. Perché hai deciso, sapendo anche che rimanevi da solo? Allora, sapevo un po', avevo delle amicizie che erano già nelle comunità, quindi sapevo un po' il mondo delle comunità, dei minori stranieri. E a quel punto, vabbè, ci ho messo un po' per convincere i miei, li ho convinti finalmente e sono venuto. Mi sono fermato in Italia, a Milano. E cos'è successo nel momento in cui ti sei fermato? Allora, nel momento in cui ero già a Milano, sono andato ovviamente dai carabinieri per gli impronti, per il nome, registrarsi. E a quel punto, ai tempi era molto più facile, sono entrato immediatamente in comunità, subito dopo 3-4 ore. Ero già in una struttura adatta per minori. E nella comunità hai potuto continuare a coltivare i tuoi sogni, giocare a calcio, fare quello che ti piaceva, quello per cui forse eri venuto in Italia? Sì, anzi, ci aiutavano tantissimo, sia per la lingua, sia per integrarsi, sia per le scuole, per la prima cosa che bisogna fare. E sinceramente è stato molto d'aiuto, ma anche per i sogni, nel senso, se avevi un desiderio, se avevi un sogno, tranquillamente lo potevi dire. Non è detto che si realizzava, però tranquillamente potevi provarci, diciamo. E tu quanto ci hai provato? Ce l'hai messa tutta? Cioè, ci sono delle storie di tuoi amici che si sono un po' persi invece per strada? Sì, ce ne sono tantissime, ma per tanti vari motivi. Quindi io sono stato, diciamo, fortunato e sono uscito tutto intero e buono, diciamo. Però ce ne sono tante storie che magari non ce l'hanno fatta in un certo senso. Tu cosa stai facendo adesso? Io adesso faccio 2 lavori, faccio lavoro in commercio e lavoro anche come educatore notturno per la cordata. Come educatore notturno stai vedendo arrivare ragazzini, quindi? Sì. Ci sono, adesso praticamente faccio ciò che ai tempi facevano i direttori per me. E cosa pensi quando li vedi arrivare? Diciamo che è più facile per me capire i ragazzi, perché ci sono stato e li ho provate tante cose che li provano anche loro. E quindi li capisco, mi viene molto più facile magari di capirli e mi sento bene perché li aiuto. Li consiglio con tutto quello che posso. Perché secondo te cos'è che prova un ragazzino che arriva in Italia da solo avendo lasciato la famiglia? Lo so che uno può immaginarlo, però forse non lo può immaginare veramente. Vabbè, la prima cosa è che diciamo che a 15 anni, a 16 anni, per mio parere quasi tutti questi ragazzini sono, è la prima volta che sono fuori dalla loro casa, pertanto, nel senso, lontano dai genitori, lontano dal loro guscio, diciamo. E quindi è un spavento, è un wow, che succederà adesso? E adesso che faccio? Come andrò avanti? Anche se magari hai delle idee che ci sono, ma la stessa la domanda te lo fai lo stesso. E anche, hai delle paure, ovviamente. Forse anche la paura più grossa è capire la persona di cui fidarsi, diciamo. Soprattutto capire la persona di cui fidarsi, perché se no, non sapendo la lingua, non sapendo dove sei, non sapendo come muoverti, rischi che rimani magari per una o due settimane in strada, ma anche di più, finché magari per sbaglio ti fermano i carabinieri e a quel punto ti trovano una sistemazione. Ma se non hai quella fortuna che i carabinieri ti fermano, rischi che rimani anche un mese, due in strada. Con tutti i rischi che la strada... Certo, ovviamente, con tutti i rischi della strada, con l'inverno o con l'estate o con quello che sia. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. La prima volta. Ben ritrovati, l'ospite di oggi è Festin, un ragazzo di 23 anni arrivato in Italia 7 anni fa dal Kosovo quando era ancora un ragazzino, con il sogno di diventare un calciatore. Dal Kosovo infatti Festin arriva in Italia con la sua squadra di calcio, ma una volta arrivato scappa. Scappa perché sogna di entrare in una squadra italiana, un sogno che però lentamente Festin dovrà mettere nel cassetto. Questa è la storia di uno dei tanti minori non accompagnati giunti in Italia senza alcuna protezione, una storia che inizia in stazione centrale a Milano e che per fortuna prenderà una buona piega. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Senti, le persone che arrivano adesso negli ultimi periodi sono soprattutto ragazzini che vengono dall'Africa. Forse è diverso, diciamo, lasciare perché si ha un sogno oppure lasciare perché si è disperati? Beh, sì, è diverso, ma perché per chi lascia perché ha un sogno magari lo fa volentieri, quindi... sì, ha una forza diversa, un sentimento diverso, e invece chi lo fa perché deve è tutta un'altra cosa, quindi ha altri sentimenti, nel senso, anche un piccolo aiuto gli sembra che gli stai dando una mano enorme. Tu la vedi questa differenza lì quando fai l'educatore? Sì, certamente sì, infatti i ragazzi... Vabbè, ovviamente non subito capiscono l'importanza perché sono dei ragazzi... Penseranno, vabbè, magari è tutto dovuto, però una volta fuori, lo dico perché l'ho pensato io stesso, quindi, però una volta fuori, quando hai con il mondo, poi veramente con il mondo reale, fai parte del mondo dei grandi, a quel punto capisci la differenza e l'aiuto che ti è stato dato. E tu proprio per questo sei molto attivo anche socialmente, oggi sei qui a questa conferenza a parlare proprio, in questo convegno a parlare proprio di questi temi, cioè sei una persona che ha proprio voglia di continuare a stare dentro il sociale. Sì, sì, ci provo, faccio del mio meglio, ci provo, quindi... E il calcio? Il calcio ho dovuto smettere perché dovevo lavorare. Avevo cominciato come un tirocinio e poi a quel punto è diventato un lavoro e E un po' il sogno è rimasto indietro e sono andato avanti lavorando. E ho un rimpianto, ti dispiace o va bene così? No, non ho rimpianto perché sono felice, quindi non ho dei rimpianti, sono felice, sono nel senso, ho una vita normale come tutti quanti, quindi ovviamente mi sarebbe piaciuto fare magari il mio sogno, quello certo, ma non sono l'unico al mondo, quindi pazienza. Ascolta, tu te lo ricordi il primo giorno che sei arrivato in Italia? Cioè, te la ricordi la prima volta? Cosa hai provato? Allora, ero a centrale e dovevo chiamare un numero non sapendo, perché il numero che ho ricevuto senza il fisso, diciamo, ho ricevuto solo il numero. Io, non avendo il cellulare, dovevo chiamare dalla cabina cellulare. E a quel punto, senza il prefisso, non riuscivo a chiamare. Ho speso intorno ai 20 euro e non sono riuscito a chiamare il numero che dovevo chiamare. Sono stato fermo per 4-5 ore, fino a quel punto che quello che mi doveva prendere si è svegliato e ha detto vabbè, lo chiamo, vedo dov'è. E questa è stata la prima esperienza. Poi subito dopo mi sono ritrovato benissimo dai carabinieri, infatti anche quando racconto, perché magari non tutti, sai, sono andati nel momento giusto, io anche dai carabinieri ho avuto fortuna che sono andato proprio nel momento perfetto, mi hanno aspettato, che sono rimasto colpito praticamente, da mangiare, da bere, mi hanno accompagnato fino alla comunità, ma proprio gentili e mi ricordo ancora tutt'oggi la prima parola che ho sentito per bene in italiano quando uno dei poliziotti mi aveva detto buona fortuna. E a quel momento non ho capito, mi suonava come una parola buona ma non capivo esattamente cosa volevo dire. E dopo ho chiesto cosa vuol dire e era proprio buona fortuna, ma un buona fortuna era sincero, perché non ne aveva nulla lui interesse da me per dirmi, ma un buona fortuna sincero. E quindi sono stato subito accolto per bene. Diciamo che non c'era la crisi che c'è adesso. Forse oggi sarebbe diverso, però forse coi minori no, forse coi minori c'è comunque attenzione. No, c'è attenzione sempre, però diciamo che c'è più difficoltà, perché all'inizio, tipo io, al primo giorno, carabinieri, dopo un'ora ero già in comunità, già tutto a posto. E magari ultimamente si fa un po' più fatica perché ce ne sono tanti e quindi magari non c'è il posto, c'è un po' da aspettare. Però ovviamente ricevono le attenzioni, direi, giuste. Ma più o meno quanti ne vedi arrivare tu in comunità? Cioè... Tanti, dipende, perché io lavoro solo in una comunità. Quante comunità sono a Milano? Tantissime. E noi ovviamente ogni volta che fa uno 18 anni poi viene uno nuovo. Però saranno tantissimo in via Dogana che magari aspettano per entrare. E a 18 anni anche a te è successo? A 18 anni ti dicono, ti aiutano a trovare un lavoro oppure... No, beh, certo, quello certo. Infatti direi il 70%, almeno parlo del mio periodo, il 70% dei ragazzi secondo me sono usciti già che avevano un lavoro. Io avevo un anno e mezzo di lavoro quando sono uscito dalla comunità, quando ho fatto 18 anni, quindi ero uscito con un buon risparmio, che tra l'altro ti fanno anche risparmiare, ti permette di essere autonomo una volta 18 anni, ma non è detto che ti dicono 18 anni vai fuori subito, ti possono aiutare, ti aiutano in tanti modi finché ti sistemi, almeno che non vuoi tu, non sei tu che te ne vuoi proprio andartene. Andartene prima, dici? No, prima, una volta dopo i 18. Okay. Ci sono delle cose che vorresti dire alle persone che ascoltano? Cioè, ti è successo mai di essere trattato in una maniera diversa, con pregiudizio, in questi anni? Sentito sì, ma sinceramente esperienza personale non ho. Non saprei, io mi sono sempre trovato bene, non so se magari ho avuto fortuna e non le ho beccate le persone sbagliate o cosa, però io mi sono sempre trovato bene, quindi non ho avuto esperienze personali del genere, quindi non saprei. E in Kosovo quando è che sei tornato per la prima volta? Una volta fatto 18 anni, dopo 6-7 mesi. Com'è stato? Bellissimo, ovviamente bellissimo, strafelice la mamma, i genitori, il fratello, sorella, e è stato bello, super bello. Words are flowing out like endless. paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Quella che vi abbiamo raccontato attraverso la voce di Festin è una parte di una gigantesca storia, una storia contemporanea che sta cambiando il profilo del nostro paese e del nostro mondo. Lo dicono i numeri: tra gennaio del 2011 e dicembre del 2016 sono sbarcati in Italia 62.672 minori senza adulti di riferimento, provenienti soprattutto da Eritrea, Egitto, Gambia, Somalia, Nigeria e Siria. Il loro numero è cresciuto di 6 volte tra il 2011 e il 2016 e continua a crescere. Le loro storie, tutte diverse, sono spesso unite da un filo rosso: il bisogno d'essere aiutati a crescere bene. Nothing's gonna change my world, just a broken light which starts before me. Per ora ci fermiamo qui. Anche questa puntata è arrivata alla fine. Grazie per essere stati con noi. Potete riascoltarci in podcast andando sulla pagina di Radio 24 e cercando La prima volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Before me, like a million eyes, they call me on and on. Across the universe, haunts me under like a restless wind inside. Let's a box, they tumble blindly as they make their way across the universe. Inciting and inviting me. Limitless, undying love, which shines around me like a million suns. It calls me on and on and on across the universe. We'll be right back.